Ho riproposto la sigla, come ben sapete quest'anno per ogni appuntamento in scena viene riproposta la nostra sigla di George Benson. Parleremo di musica, poesia per un incontro e uno spettacolo che ci sarà tra qualche giorno, magari riprenderemo anche i dettagli nel corso dei nostri last minute al Breakfast Club, uno dei protagonisti. Finalmente risentiamo Alessio Di Modica, al quale do il buongiorno. Buongiorno, bentornato Alessio. Grazie, buongiorno a te William, ciao a tutti. Allora, con tanto entusiasmo nonostante l'orario, ma tu mi hai detto che sei molto mattiniero, quindi questo mi rassicura per non disturbare le voci di attori, direttori artistici e protagonisti della rubrica In Scena. Quando ho letto del tuo spettacolo, subito sono andato nel mio mobilone dei CD a ricercare un lavoro di Daniele Sepe per edizione Il Manifesto. Dal titolo conosci Victor Jara e subito appunto ho dato anche motivo di colonna sonora ulteriore per il tuo spettacolo. Lo facciamo conoscere anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, Alessio, di chi si tratta? Sì, Victor Jara era un regista e un cantautore cileno. Grazie a lui negli anni 60 in Cile si ebbe quel grande movimento culturale che nella musica sfociò nella nuova musica cilena. Sono figli suoi, hanno raccolto la sua eredità, gruppi come gli Intillimani per esempio. E Victor veniva proprio dalla povertà, dalla fame, lui riuscì ascoltando le persone, raccontando le storie delle persone. Cioè, si dice che lui già quando era famoso, al fine concerto, se qualcuno lo invitava a casa, lui senza sapere dove andava, ci andava. Passava la notte parlando con i genitori, a volte anche in baracche, nelle poblaciones, nelle baracche, nei quartieri più poveri, quindi ascoltava davvero la voce del popolo. Era così forte il suo rapporto col popolo che quando arrivò il golpe del 73, si decise che era uno di quelli che doveva sparire, perché il regime militare definì gli strumenti indigeni ricchi di ispirazione e di significato per il popolo. Quindi fu catturato all'università, fu arrestato insieme a migliaia di persone, portato allo stadio, torturato e ucciso. E il suo corpo è stato riconosciuto due volte, perché altrimenti sarebbe finito in una fossa comune nell'oceano, e invece anche da morto fu riconosciuto e si riuscì a salvare il suo corpo. Oltre che un grande intellettuale, una persona che dava tutto se stesso per determinate cause, mettendo a disposizione musica, poesia, scrittura e quant'altro. Questo artista verrà, mi pare, l'8 settembre, correggimi se mi sbaglio, ne ho dato un po' di anticipazione apposta. Il 9, ecco, vedi subito. E perché l'8? Perché l'8 c'è la prossima puntata della rubrica In Scena. Allora magari lo riprenderemo l'8 per dare ufficialmente l'annuncio del 9. Dove, Alessio? Al Centro Sociale della Pace e Fratello Resiste. Ok, a che ora? Alle 18. Perfetto. Di che si tratta? Cosa andrà in scena? È il debutto assoluto, proprio. Fra l'altro noi stiamo prendendo il vizio con diversi spettacoli di debutteria a Bologna insieme al Centro Sociale della Pace e al Fratello Resiste, perché non è la prima volta che succede. E racconterò la storia di Victor Jara. Ovviamente raccontare la sua storia significa raccontare il golpe e soprattutto l'11 settembre meno famoso, di cui per tanti motivi non se ne parla. Sul palcoscenico ovviamente ci sarai tu, e chi sì. troveremo, o cosa troveremo, senza anticipare troppo, però dare qualche indicazione? Sul palcoscenico troveremo questa storia che abbiamo intitolato lo spettacolo Infinita Poesia, perché la storia di Victor è stata veramente una poesia senza fine. E la difficoltà maggiore di questo spettacolo per me come raccontatore è stato mettermi a nudo e raccontare con semplicità la storia di un uomo semplice, perché davvero c'è bisogno di poco, basta raccontare i fatti e gli eventi che ha vissuto, sono accaduti, per arrivare dritto al cuore. Infatti dico che questo spettacolo, questa storia la racconterò col cuore in mano. Certo. Non so se hai risposto alla tua domanda. No, hai risposto perfettamente, quindi un aspetto che va oltre la presenza scenica quanto quella emotiva e quella di dialogo e interazione con il pubblico. Sarà il Circolo della Pace, Fratello Resiste, questa realtà d'incontro per dare luce al protagonista immortale Victor Jara. Allora, con lo stacco musicale, Daniele Sepe che interpreta la sua Zamba del C'è, ti invito a restare in diretta perché avremo motivo di conversazione ulteriore e non solo per lo spettacolo. Ricordiamo, scusate la mia gaffe con le date, ma è tutto normale, sai, non ti preoccupare, ho appena riniziato io, data, ora, insomma, ogni tanto vado un pochettino per gli affari miei in maniera un po' anarchica. Comunque sarà il 9 settembre alle ore 18, Circolo della Pace, Fratello Resiste, con Alessio Di Modica qui al telefono con noi per darne presentazione e anticipazione. A tra poco. Vengo cantando esta samba con redobles libertarios, mataron al guerrillero che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió, liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. Le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Poesia in musica, Zamba del C'è. Conosci Victor Jara, Daniele Sepe, per dare anticipazione allo spettacolo del 9 settembre al Circolo della Pace, Fratello Resiste. Alessio Di Modica è interprete, autore, qua in diretta telefonica con noi. Da un po' che ci sentiamo e finalmente riusciamo ad avere questa conversazione. Ci sei, Alessio? Sì, ci sono. Molto bene. Allora, dopo queste presentazioni tra la storia, la realtà del personaggio, l'impegno, il sacrificio, la vicinanza e tutto quello che ha portato anche nell'arte, nella conoscenza e nella diffusione di contenuti quanto mai importanti che devono essere sempre e comunque, per quanto riguarda il tuo lavoro, collaborazioni, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, allora, intanto per questo spettacolo, diciamo che era nel sono anni che lo pensavo, che volevamo farlo. Ci è sembrato un'occasione buona per prendere il cinquantesimo anniversario del golpe in Cile e della morte di Victor. Fra le varie collaborazioni per questo spettacolo, a parte con Fratello Resiste, il Centro Sociale della Pace, il Leon Cavallo a Milano, l'Arci Esedra di Sortino e la Biblioteca Grifone Avarì a Catania, ce n'è una particolarmente importante a cui teniamo senza togliere merito agli altri, che è con l'ambasciata cilena in Italia. Certo, giustamente sì. Da citare che ovviamente è protagonista allo stesso modo col periodo che stiamo vivendo, poi tra l'altro è importante questa intersezione per non dimenticare e portare avanti tutto ciò. Titolo dello spettacolo ufficialmente lo citiamo, così porteremo anche nel podcast titolo e intestazione. A te la parola, Alessio. Infinita poesia, conto per Victor Jara. Perfetto. A questo punto ti chiedo di progetti futuri che tu non mi dirai, perché mi hai detto che per questo lavoro sei stato impegnatissimo, quindi adesso però ti posso... sei concentrato su tutto ciò, però so che tu sei carico di entusiasmo e anche di idee, per cui mi azzardo a chiedertelo. Ma guarda, se posso, diciamo, contraddirti, ti parlerei dei progetti passati per un motivo. Questo è il primo anno e prometto anche l'ultimo, che abbiamo debuttato con due spettacoli con la nostra compagnia Area Teatro, perché è coinciso questo fatto dell'anniversario del cinquantesimo e volevamo prenderla come occasione per fare questo spettacolo. Ma a maggio abbiamo debuttato con un altro spettacolo che racconta l'industrializzazione dei territori con la coproduzione di Recommon, e quindi in realtà in questo momento, in autunno, noi partiremo con questi due spettacoli, per cui avremo il 2023 e il 2024 in cui porteremo avanti questi spettacoli. E poi le storie sono tante che vorrei raccontare, strada certo. Facendo ne incontrerò qualcuna che sicuramente mi prenderà, ma intanto abbiamo questo periodo in cui avremo questi due spettacoli in giro. Beh, mi hai dato già una bella anticipazione, se vuoi passare dal Breakfast Club in scena sei sempre graditissimo. Grazie. Io ti ringrazio tantissimo e quindi un buon venerdì, una buona vigilia di weekend e a presto, Alessio. Grazie. Grazie a te. Ciao. Grazie a voi e spero di vederci presto. Ciao. Buona giornata. Ciao William, ciao. Night, un progetto per la Klein Record, alternativa alla più nota G-Stone, quella degli scienziati di Vienna, Kruder e Dorfmeister, anche se in Loft, nella realtà della Klein, potrebbe entrare in altri suoni. Sto facendo un po' di esperimenti per le playlist prossime venture. È terminata la prima puntata della stagione 2023-2024, oggi venerdì 1 settembre. Ovvio che l'appuntamento sarà lunedì. Vi aspetto chiaramente puntuali alle ore 7 qua sulle frequenze dei 103.1, per cui vi auguro intanto un buonissimo weekend, ringraziandovi per l'attenzione, ricordando anche che a breve avremo Liberi Dentro a seguire la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, coadiuvato da Andrea Utensili e dal vostro William Piana. Un grazie per l'attenzione, un buon ascolto e una buona giornata. A lunedì, ciao a tutte, ciao a tutti. It's not a move. It's not a move.